per niente a capire. Se hai fatto tanto, poco o nulla, ti osservi spesso e non sai decidere. Fai fatica e non respiri. Aspetterò che tu parlerai di me. Aspetterò che tu parlerai di me. La tua idea è continuare a scappare, vincolarti per non reagire. Riuscirai a fare cose che non vuoi. Sceglierai come soffrire. Aspetta. Aspetterò che tu parlerai con me. Aspetterò che tu parlerai di me. Aspetterò che tu parlerai con me. Stabile.